È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Il giorno, caro Parenzo, aleggiava nel mondo della politica questa domanda, che alla fine si risolveva in un giallo: chi ha proposto, redatto e inserito nella manovra economica la norma cosiddetta salva Mondadori? Chi? Se lo domandava, per esempio, il signor Frattini, ecco, ministro degli esteri, che diceva anche: la norma non è stata discussa nel Consiglio dei Ministri. Di questa norma non c'è stata discussione approfondita, non è stato oggetto specifico di discussione in Consiglio dei Ministri. E allora chi l'aveva messa dentro? Mentre tutti noi pensavamo che cosa? Che solo Berlusconi poteva averla messa. L'avrà messa Bersani, l'avrà messa. No, no, infatti Bersani è all'opposizione. Bersani no, la signora Lorenzin, per esempio, esponente del PDL, diceva in maniera molto esplicita: non sappiamo chi l'ha proposta. Questa norma non sappiamo neanche chi l'ha proposta, come è nata, perché sembra una cosa nata all'ultimo momento. Ma come sai chi l'ha proposta? Non è possibile. Signora Lorenzin! Mario Sechi. Bravo, Sechi, direttore del Tempo. Mi piace sto Sechi. Chi l'ha messa? Berlusconi non può non sapere. Mario Sechi. No, il vero, ecco, dilemma, è il vero dilemma resta: chi ce l'ha messa? Perché qua non lo sappiamo chi l'ha messa. Io ho già visto altre volte inserire norme salva Berlusconi, chiamatele come volete, così via, di cui Berlusconi non sapeva nulla. Beh, caro Mario Sechi, questa volta era evidente che la norma l'aveva messa Berlusconi, ed era talmente evidente che a un certo punto nel pomeriggio Berlusconi, in maniera molto semplice, solare, diceva: la tolgo. Dunque l'ha messa lui. L'ha messa lui, allora. È tutto chiaro. La tolgo, è giusta, ma la ritiriamo. C'è stata una speculazione politica da parte dell'opposizione. Va bene. E così è finita questa sceneggiata della norma salva Fininvest, che magari poteva anche essere corretta nella sua ratio, no? Però proporla adesso, caro Parenzo, è certamente apparsa molto strumentale. Come tante leggi approvate da questo governo che denotano un piccolo conflitto di interessi. Beh, non so tante leggi, comunque questa qua tante, sicuramente tante favoriva molto probabilmente la Mondadori alla vigilia di questa sentenza. Io toglierei il molto probabilmente. Beh, dipende dalla sentenza com'era, naturalmente, no? Certo, per carità. Crosetto è tornato a tuonare contro Tremonti. Senti cosa dice: il capo gabinetto di Tremonti prende 1.200.000 euro. I veri tagli ai costi della politica sono quelli. Bravo sto Crosetto. I costi della politica, io inizierei a chiamarli in un altro modo, sono i costi dello Stato, perché vede, per il capo di gabinetto di Tremonti guadagna 1.200.000 euro l'anno, un parlamentare 150. Beh, non è che gli ruberà 1.200.000 euro all'anno il capo di gabinetto di Tremonti. Beh, qualcuno deve aver firmato un contratto. 1.200.000 euro all'anno. Così dice Crosetto, il capo gabinetto di Tremonti. Di non lo so, adesso indagheremo, naturalmente. Chiudiamo, perché già c'è un ospite che ci sta aspettando, con Di Pietro, il quale dice: parlerò di nuovo a Berlusconi in aula perché non ne sta azzeccando una. Cercherò di consigliarlo bene. Di Pietro. In Parlamento, se si avvicina, ci parlerò proprio per spiegarglielo. Ma non è che ti consiglino un po' male, perché poi non ne ha azzeccato uno. Il referendum sulle centrali nucleari l'abbiamo vinto soprattutto grazie a lui. Ma quello sì. Grazie a lui, perché dei referendum se ne parlava poco, io ero imbestialito che se ne parlava poco. Poi lui è andato a fare. Bene, siamo qui, 800 24 00 24, questa è la zanzara, caro Parenzo, è con noi il sindaco di Torino, anzi no, è caduta la linea, vabbè, era con noi. Tra poco tornerà con noi il sindaco di Torino, Piero Fassino. Allora sentiamo subito Claudio da Udine, va, Claudio. Signor Claudio? Sì, dica. Sì. Io dovevo intervenire ancora ieri sera, quando lei ha detto... Sì, non si preoccupi, ieri sera, domani, dopodomani, cinque giorni fa, dica quello che deve dire, dica. Comunque, perché lei, nel mezzo al discorso sulla TAV, ha detto che i poliziotti praticamente dovrebbero essere legittimati a pestare la gente tranquillamente. No, io non ho detto questo, naturalmente. Si figuri se posso aver detto che i poliziotti sono legittimati a pestare la gente. No, devono essere, dovrebbero essere legittimati. Non ho detto questo. Dico, e lo riconfermo, che come è evidente che sia, ho detto una cosa scontata, la polizia in uno Stato democratico è l'unica a detenere il monopolio della violenza, che deve essere usato naturalmente secondo certe regole. Poi ci possono essere delle sbavature, delle eccezioni e dei casi singoli, anche dei casi non solo singoli come è successo durante il G8. Dopodiché l'unica forza a poter utilizzare la violenza è la polizia. Dunque non è strano che i poliziotti diano delle manganellate o che facciano delle cariche o che utilizzino i lacrimogeni, è assolutamente normale. Io questo volevo dire. Ma mi scusi, lei forse non è mai stato probabilmente alla manifestazione, non sa come funziona, no? Questi signori qua non vanno mai a cercare quelli giusti, no? Vanno sempre a cercare la povera gente. Passano, c'è una vecchietta che magari una signora anche di 50-60 anni e gli danno una martellata o una legnata in testa tranquillamente, cosa già vista e successa, lo vado a vedere qualsiasi filmato di YouTube anche sul G8 vecchio. Questo cosa significa? Questa gente qua o non sono preparati o hanno delle cose represse, perché se adesso lo cercassi i black bloc, gli dessero un frago di legnata, io sarei il primo a essere contento. Invece poi queste qua se la prendono con la povera gente, vanno a fare della scuola, di che sta parlando? Non è che tutte le manifestazioni c'è il manganello, tutte le manifestazioni si utilizza il manganello come dice lei. Di cosa stiamo parlando, su Claudio, di cosa parliamo? Su YouTube di quanto riguarda, ma il cosa G8 vuol dire su YouTube? Tra l'altro pure l'accusa che ha fatto questo giovane che dice di essere pestato, i poliziotti le respingono dicendo che uno è abituato a mentire, eccetera, eccetera. Va bene, la ringrazio. 800 24 00 24, Alberto da Savona, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Bello. Dica. Sempre sentirci ogni tanto. Volevo fare una domanda, perché c'è una cosa che vorrei capire da lei e anche dal dottor Parenzo, che saluto. I ripetuti interventi di Cilipoti, Giovanardi, Straquadagno, e ogni tanto rinvangare Rotondi con quella celeberrima frase, è da interpretare da parte di noi ascoltatori come bicchiere mezzo pieno o bicchiere mezzo vuoto? Che cosa, scusi, non ho capito. Allora, sentire spesso e volentieri Cilipoti, Straquadagno, Giovanardi, noi ascoltatori la dobbiamo interpretare come bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? E mi spiego. Non ho capito nulla, Alberto. Abbia pazienza, sì, allora, siamo male stasera. Non capisco niente, sarà colpa mia. Questi ripetuti interventi. Come, ma quali ripetuti interventi? Vuoto, sono presenti un poco più di altri. Comunque, come li interpreta lei questi ripetuti interventi? Avanti. Ma io li interpreto come bicchiere mezzo pieno. Ma che vuol dire? Che rispetto a che cosa? Mezzo pieno o mezzo vuoto? Scusi. Allora, gliela stavo spiegando. Ma no, già il fatto che la debba spiegare è preoccupante, ha capito Alberto? No, non è preoccupante. Bene, allora, o lei e Parenzo volete dequalificare la trasmissione e allora lo vedo come bicchiere mezzo vuoto, oppure fate un servizio alla nazione alla e ci fate capire che metà dei parlamentari sono inutili. Va bene. Alberto, forse è giusta la seconda, non lo so, era ardita la metafora che lei stava facendo, comunque insomma la prendiamo per buona. La ringrazio. Andrea da Perugia, buonasera. Buonasera. Sì, chiuda la radio, grazie. Spenga. Va bene così? Così va bene, sì. In macchina? Dovrebbe essere una regola ferrea, caro Andrea. Dica. Purtroppo ero in macchina e lo so, sono in macchina. Comunque, per carità, ma va benissimo. Volevo fare un'osservazione con voi, se la ritenete giusta o meno. Questa manovra di cui tanto si parla oggi, senza entrare nel merito di essere favorevoli o contrari, a mio parere è una vittoria politica clamorosa di Tremonti. Perché? Perché il grosso della manovra a livello economico si sposta nel biennio successivo a questo, post elezioni. Comunque a livello europeo mantiene una sua alta credibilità, è l'unico forse membro del governo, e si pone come unica vera alternativa a Berlusconi per il centrodestra, visto che è anche l'unico politico che l'opposizione vede in un qualche modo positivamente. Vabbè, Andrea, sì, può darsi che il risultato finale sia questo, il Tremonti che esce rafforzato, vedremo poi da passaggi parlamentari. Bene, Claudio da Roma, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Senta, io due cose volevo dire, già da ieri, poi purtroppo è caduta la linea. Dica pure, senza allora, ieri, però, oggi, domani, dopodomani. Ieri, oggi e domani è stato un bel film. È uguale, è la stessa ricordare. Cosa. Dica. Senta, allora, un omaggio di quelli proprio eccezionali all'amico Sante Versace. Io non ho nessun vestito di Sante Versace, ma penso che me lo compri. Rispetto al discorso che lui voterà per l'arresto di Papa. Di Papa. No, io devo dire una cosa su questo. Alfano. No, Claudio, mi scusi un attimo. Sì, Trovo che ci sia una grandissima ipocrisia in questo, perché non c'è stata una volta in cui i parlamentari del PDL hanno votato a favore dell'arresto di qualche... anche deputati o senatori del Partito Democratico si sono comportati sempre nello stesso modo. Adesso il povero Papa, voglio solidarizzare quasi con lui, è l'unico che alla fine su cui probabilmente si voterà a favore dell'arresto. Io lo trovo una cosa un po' assurda, non è che ci sono cose in più di Papa rispetto agli altri, ce ne sono stati troppi prima probabilmente, ma non lo so, lui è l'ultimo di una lunga serie può darsi, e si sono però, stufati tutti, appunto, lui però è arrivato il momento, possiamo solidarizzare con Papa da questo punto di vista, ma sì, ma anche sì. Anche in modo ironico, simpaticamente, figuriamoci. Purtroppo finora, è caduto nella trappola sì, nel momento però, sbagliato. Finora l'hanno indagato nel momento sì, sbagliato. Ma lasciamo perdere l'indagato, non indagato. Hanno chiesto l'arresto. Finora non è stata concessa mai una volta, se non una, ma non è in questa legislatura. Ne hanno indagati troppo. Ho capito, ma si può dare la solidarietà al povero Papa che si trova contro anche esponenti del proprio partito che fino adesso non si sono fatti nessun problema nel negare gli arresti a un deputato o un senatore? Io gli esprimo la mia grandissima solidarietà. Cioè, è sbagliatissimo il metodo, peraltro. Sarà sbagliatissimo il metodo. Loro devono indagare, devono dare non un è che giudizio dare sempre, sì, di merito su fumus, persecutionis. Sai cosa ha detto il signor Fassino, sindaco di Torino, per carità, ha detto con tutto rispetto che a un certo punto, caduta la linea, ha preso un'altra chiamata importante, dunque non poteva rispondere. Però, signor Fassino, si prendono gli appuntamenti anche per rispettare gli appuntamenti. Allora, se lei ha un appuntamento con il signor Cruciani e il signor Parenzo, che non sono nati ieri, la zanzara non è nata ieri e lei non lo rispetta, allora la prossima volta si faccia vivo lei quando vuole intervenire, altrimenti a noi non ce ne frega assolutamente nulla. Ci chiami lei, se uno deve prendere un treno, no? Un tram, sì. Va lì alla frana dell'autobus, dice poi gli dici pretendono, c'ho il treno alle 18.30, dice sì. Se arrivi alle 18.32 il treno è partito, a meno che vabbè dei ritardi o è spesso al treno, però no, sì, il treno parte alle 18.30. Tu ti presenti in stazione alle 18.35. No, ma è abitudine, devo prendere un'altra chiamata urgente. Allora, se era urgente la chiamata, che appuntamento fissava? Beh, comunque agli ascoltatori non gliene frega niente. Vogliamo comunicare agli ascoltatori che dovevamo avere ospite il signor Fassino Piero, sindaco di Torino, sì, per parlare di diverse cose, il quale però ha risposto ad un'altra telefonata urgente e non ha rispettato gli appuntamenti, ma questo capita abbastanza sovente. Gianni da Belluno, buonasera. Abba. Sei pronto? Sì, dica. Sì, intanto le faccio i complimenti per questa trasmissione, io l'ascolto da molto tempo e poi volevo commentare con lei una frase che lei ripete spesso nei suoi interventi. Lei dice che qui si blatterà, pertanto qua in Italia non cambia niente. Io volevo chiedere una cosa, io ho 50 anni, cosa devo fare per cercare, perché non voglio restare in questa situazione, perché cambi l'Italia, perché questo partito classico... Non ho capito nulla, Gianni, lei vuole che cambi l'Italia, cosa significa non l'ho capito, cambi l'Italia in che modo? Cambiare i partiti. Ma che vuol dire cambiare i partiti? Che significa controllo cambiare i partiti? Troppo l'economia, controllo troppo meno politica, lei dice, meno politica nell'economia, meno presenza dei partiti. Meno costi della politica, perché noi... Non so cosa deve fare, sembrava che fossimo ad una svolta sui costi della politica, ma... Anche questa volta non ci siamo. Le telefono dal nord-est, noi abbiamo votato in massa la Lega, credendo nella Lega che cambiasse qualcosa, questa Lega che era prima contro un po' tutto, adesso invece che questa Lega si è adattata alle esigenze del governo e non si riesce più fuori, non si riesce. Non so va bene. Cosa ne dice. Che ne dice? Non lo so. Non si riesce più fuori? Non se ne esce più fuori. Tipicamente vero. Sì, ma bella, che non se ne esce lei più mi è fuori. Un po' troppo generico, signor Gianni, glielo devo dire. Comunque, non se ne esce più fuori, è un'espressione un po'... Tipicamente veneta, non se ne esce più fuori. Hai capito? Damiano da Roma, buonasera. Buonasera, Cruciani. Io volevo sapere una cosa, una curiosità. Ma è possibile che nel governo Berlusconi non ci sia una legge che in qualche modo, sotto qualche riga strana, qualche foglietto nascosto, non ci sia sempre qualcosa pro Silvio, ma non trova che sia veramente ridicolo? O se veramente sono tutti una massa di, come disse buon Berlusconi, coglioni, quelli che seguono queste cose, o c'è qualcosa che non torna in questo gioco? La sua non è una domanda, è un'affermazione. Ironia. Naturalmente non in tutte le norme del governo, non in tutte le norme varate del governo ci sono norme che in qualche modo lambiscono, toccano interessi di Berlusconi, però sicuramente, essendo Berlusconi, come sappiamo, un imprenditore, essendoci in ballo diverse cose, processi, risarcimenti, eccetera, anche in questo caso norma ad aziendam, Damiano. Comunque il problema è stato risolto dopo le paginate dei giornali, delle televisioni. Certo. Cioè, secondo te volevano farla di nascosto e speravano che qualcuno non se ne accorgesse? Nelle pieghe della finanziaria si nascondono le peggio cose spesso. Può darsi che l'hanno messa lì perché qualcuno. Ma insomma, è interessante capire chi l'ha tirata fuori, chi l'ha data ai giornali. Chi l'ha redatta, per esempio. Chi l'ha redatta e poi chi l'ha data ai giornali. I giornali se ne sono accorti i giornalisti. Sì, i primi. No, ma ci serve qualche insight. Noi abbiamo sempre qualche insight, sì, no? Certo. Qualche talpa, qualcuno da dentro che voleva mettere ancora in difficoltà il cavaliere. Può darsi. Gian Maria da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Niente, io volevo fare una piccola domanda a voi, così interlocutoria. Premesso che l'Unità d'Italia è stata fatta sui massacri dei popoli del sud a livello di olocausti perpetrati in maniera continuativa, sì, dai piemontesi. Certo, partiamo dall'Unità d'Italia. Sì, no, vabbè, perché abbiamo festeggiato da poco i 150 anni. Certo, infatti è un argomento di grandissima attualità, insomma. Non vi sembra curioso? È di attualità? Di grandissima attualità. Sì. Di grandissima attualità. No, ma se ne discute in continuazione di questo. È controverso il fatto che negli ultimi anni tutti gli eventi che ci sono stati, in cui erano coinvolti agenti delle forze dell'ordine a vario livello, non hanno mai trovato nei questori, nei prefetti, qualcuno che dicesse: questo signore, individuo, singolo, come può capitare a tutti noi di sbagliare, ha compiuto un gesto sbagliato da stigmatizzare. Sì, Gian Maria, è vero quello che dice lei, però c'è da sottolineare una cosa. La polizia, i carabinieri, tutti i corpi militari, chiamiamoli così, in maniera generica e sicuramente anche errata, tendono sempre a chiudersi, a giustificarsi da che mondo è mondo. Dunque un tasso di, come dire, di ritrosia e anche, se vogliamo, di allergia ad ammettere i propri errori è superiore rispetto ad altri corpi sociali, no? È normale ed è sempre accaduto. Qualche volta questo si trasforma in occultamento della verità, come è successo in troppo diversi spesso. Casi. Troppo spesso, può darsi troppo spesso. Altre volte è una semplice ritrosia di tutti i gruppi chiusi ad ammettere le proprie responsabilità. Daniele da Udine, buonasera. Buonasera. Ma volevo fare un'osservazione in merito alla questione TAV, ovvero al fatto che opere di questo genere, e questo in particolare, riscuota poco successo, forse nell'opinione pubblica, credo sia da mettere in relazione ai costi, cioè al fatto che un'opera pubblica in Italia non si costruisce, non si realizza nei tempi e nei costi previsti. E questo, parlo per me in questo caso, dico, genera una forte ritrosia, poco entusiasmo, non c'è un senso di unità e di proiezione verso il futuro. Sarà un'altra opera che si compirà in tempi duplici, triplici rispetto a quello che è nella previsione e con relativi maggiori oneri. E questo è il punto. Io mi occupo di edilizia da 15 anni, opero esclusivamente nel settore privato, tutto questo non succede praticamente mai. Basta mettere delle sanzioni. Lei ha ragione su questo, per carità, i tempi non vengono mai rispettati, i costi aumentano, eccetera, eccetera. Davide da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Io in realtà volevo fare un intervento piccolo su quanto è stato detto ieri a proposito di Oscar Giannino e di Beppe Grillo, perché secondo me sono stati un po' travisati entrambi, nel senso che io sono di Napoli. Grillo travisato non è stato per niente, perché su che cosa sarebbe stato travisato Grillo, mi scusi? Ah, in realtà io oggi pomeriggio ho visto su YouTube il filmato integrale della manifestazione in Val di Susa e mi risulta che Grillo abbia anche ripreso uno dei manifestanti più facinorosi dicendo: non facciamo così perché altrimenti Restano le parole del signor Grillo. Restano le parole pronunciate dal signor Grillo, che ha inneggiato alla rivolta. Qui sono in corso prove tecniche di dittatura, state facendo una rivoluzione straordinaria, siete tutti eroi, eccetera eccetera. Ha parlato dei poliziotti in un certo modo, di Maroni in un altro modo. Dopodiché poi non restiamo sui singoli dettagli. Parlava a tutti e dall'altra parte c'erano i poliziotti. Questa è la realtà dei fatti, Davide. Cioè, non c'è nulla da travisare, lasciamo perdere queste cose. Avete travisato, è sempre così. Cosa ha detto il signor capogruppo del 5 Stelle? Il capogruppo in regione Piemonte, il signor Davide Bono, dice: ho indossato la maschera antigas. Se questo significa essere un black bloc, sono un black bloc. Ci sentiamo dopo il giornale radio, 800 24 00 24. In diretta la Zanzara, 800 24 00 24. Andiamo a sentire subito, caro Parenzo, i titoli del TG3, orfano della Polanco. Ma verrà sostituita. Che cosa inventerai? La tua mente, direttorissimo, cosa partorirà per annunciare il TG3? Vabbè, siamo in trattative. Siamo in trattative con un'altra signorina, naturalmente. Vabbè, certo, un'altra signorina, sempre della scuderia Berlusconi, però. Sempre della scuderia Berlusconi. Sempre lì vai a pescare, eh? TG3. Berlusconi annuncia il ritiro della norma salva Fininvest. Di Pietro, attentato alla democrazia. Casini, balletto indecoroso. Rosi Bindi, ospite del TG3. Il provvedimento travolto da un'ondata di proteste. Il gelo della Lega. Tremonti che annulla la conferenza stampa. La bocciatura del CSM. Una parte del Partito Democratico presenta due quesiti referendari per abrogare la legge elettorale, ma il segretario Bersani frena. Il nuovo segretario Alfano, che ha rilanciato il PDL come partito degli onesti, alla prova sulla richiesta di arresto del deputato Papa. Roma ancora scossa dalla violenza, un uomo ucciso in strada nel centrale quartiere Prati ed è polemica sulla sicurezza. I funerali del caporalmaggiore Tuccillo, caduto in Afghanistan. Un uomo ricco di pace, ha detto l'arcivescovo militare nell'omelia. Ed è mobilitazione stasera a Roma per difendere la libertà del web contro i pericoli di restrizione della libertà di espressione. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Eccoci, 800 24 00 24. Allora, ancora Crosetto contro Tremonti, contro la manovra. Adesso risentiamo tutto. Crosetto, la manovra non mi convince, il sottosegretario alla difesa. È una manovra che personalmente non mi convince. Non la convince, no. Ancora non la convince, no. Lo Stato vende gioielli di famiglia. Se lo Stato dimostrasse il coraggio di fare scelte come quelle che dicevo prima, vendo tutti i gioielli di famiglia per abbattere il debito, quindi non metto le mani in tasca del cittadino, perché prima mi tolgo quella parte di ricchezza che mi fa piacere amministrare, perché è bello per il ministro del tesoro nominare i vertici dell'ENI, di Mediobanca, è un potere mica da ridere. Cioè, la ricchezza non la fa lo Stato. E ancora Crosetto, il capo gabinetto di Tremonti prende 1.200.000 euro l'anno. I costi della politica, io inizierei a chiamarli in un altro modo, sono i costi dello Stato. Perché vede, per il capo di gabinetto di Tremonti guadagna 1.200.000 euro l'anno, un parlamentare 150. Ti ha beccato, ai ai, ti ha beccato. Ma che come fate? Che cosa fate? Vi abbracciate? Baciamo Freccero! Una cosa pazzesca, sentiamo un attimo. Idolatria per Freccero! Un attimo, fermi. La russa. No, la russa no. No, tifoso, non come ministro della difesa, tifoso dell'Inter. Oggi si scatena contro Palazzi. Come fede storpia il nome di Palazzi, che è il capo dell'ufficio inchiesta della Federazione Calcio. La russa. Palazzi, non so bene come si chiama, Palazzi, che corrisponde a un pubblico ministero. È come se di fronte a una richiesta del pubblico ministero coperta da prescrizione si volesse ritenere qualcuno responsabile, anche solo moralmente, di qualcosa. Dal punto di vista giuridico è improponibile. Quindi qualunque ipotesi del genere mi trova veramente esterrefatto. Esterefatto, La Russa è esterefatto perché è tifoso dell'Inter ed è anche indignato per l'attacco a Facchetti. Quando c'è da dichiarare sull'Inter, su qualcosa non si, tira mai si indigna. Almeno, devo dire la verità: siccome La Russa ha un contenzioso con noi, oggi ho detto, beh, chiamiamo La Russa, facciamo finta di solamente Radio 24. Un po' di stalking. Solamente Radio 24. Un po' di stalking telefonico. Vogliamo una cosa su Pranta. Palazzi. E lui è partito su Palazzi così, senza nemmeno capire chi era. E chiamiamolo anche sulla finanziaria, però, no? Così al volo, dici. Sì, al volo, il ministro della difesa. No, intanto sentiamo indignato per l'attacco a Facchetti. Quello che mi indigna è l'attacco a una persona che io, prescindere da tutto, voglio dire, non perché sono interista, considero una delle persone di dirittura morale più alta che io abbia conosciuto, come Giacinto Facchetti. E ora per presentare l'ospite che abbiamo qui accanto, voglio farvi sentire dell'Utri di ieri alla Zanzara, sulla televisione. Secondo me era un'analisi sulla televisione che si riferiva a un Berlusconi un po' degli anni Ottanta. Dell'Utri dice, Berlusconi vuole vendere il cappuccino a tutti, destra, sinistra, però insomma forse un'analisi un po' vecchia quella di dell'Utri, sentiamo. È Berlusconi che ha detto sempre noi il cappuccino lo dobbiamo vendere a tutti, dall'estrema destra all'estrema sinistra, quindi questa è stata sempre la regola della nostra televisione. E poi sempre sulla televisione lavorai per portare Santoro a Mediaset. Santoro, guarda, a suo tempo io consigliai di prenderlo e anzi partecipare alle trattative assieme a Galliani e con Fallonieri per portarlo a Mediaset. A suo tempo, si ricorda, venne su Italia 1 dalla RAI, provenendo dalla RAI. E fui uno che fui quello che dibattei con loro in maniera molto decisa perché ero convinto di fare un bene per la nostra rete, anche politicamente. Bene, Carlo Freccero. Eccolo qui. Buonasera, dirigente della RAI, direttore di RAI 4. Allora, ma quello che racconta dell'Utri appartiene ad un mondo che non c'è più? Eh sì, esattamente. Cioè il Berlusconi che voleva vendere il cappuccino a tutti. Sì, era il 96, esattamente. Santoro arrivò a Mediaset e io li ho controprogrammato. Il primo programma che fece a Mediaset Gianni Morandi e fu una serata magnifica perché fece il 30%. Era Rai 2, sì. Controprogrammato, bellissimo. E ha controprogrammato a Santoro e vissi la serata 30%. E da lì iniziò tutto quanto la carriera di Gianni Morandi in televisione. D'altra parte, io penso una cosa per iniziare subito, per fare un po' di calore al programma. Sì, sì. Se c'è una cosa di cui sono convinto è che la TV è naturaliter d'opposizione. E quindi quando ci sono i governi di centro-sinistra, la TV e in qualche modo fa evasione, divertimento, quando la destra ha il potere si fa controinformazione. E la controinformazione di destra non può esistere? Beh, quando sembra, c'è un governo di sinistra. Mi dispiace per lei, ma gli esempi che ho avuto in questi anni di informazione di destra sono altamente, in qualche modo, deludenti. Perché non la sanno per fare? Per esempio? Ma ad esempio lo ricordo, guardi, hanno provato quando Santoro andò via Antonio Socci, Excalibur, poi ci fu naturalmente Masotti. Punto e a capo. Insuccessi clamorosi. Come? Insuccessi clamorosi. Come lotta il professore. Però io sono convinto di una cosa, che la televisione, almeno i talk show di informazione Battaglieri, sono sostanzialmente di sinistra. Cioè di sinistra, sono... Sì, d'opposizione. D'opposizione, sì. Esattamente, sì. Perché d'altra parte il pubblico di fronte alla TV si piglia una rivincita. Qualcuno diceva che il pubblico fa massa, cioè nel senso che vuole in qualche modo, si oppone in qualche modo, non vuole educarsi, non vuole, fa sempre opposizione. Quindi, torno a ripetere, io ricordo sempre che, guardi, gli anni più belli in qualche modo dell'intrattenimento sono stati proprio gli anni in cui c'era Prodi al governo, il primo governo a Prodi. Naturalmente nel 2000, quando feci una Rai 2 splendida, emozionante, straordinaria, che oggi il giornale ha attaccato in modo maldestro e fuori uso, eccetera, e Berlusconi aveva già vinto in modo clamoroso, perché i sondaggi erano dalla sua parte, per cui lei sa benissimo che la TV anticipa sempre qualcosa. E quindi fece una TV completamente di opposizione, ma naturalmente in termini televisivi, perché io poi politicamente proprio non so nulla non capisco nulla. Ma come si definisce, di sinistra, di centro? Come posso definirmi? Una persona che cerca di fare la TV, di essere molto libera. Questa etichetta non gliene frega no, più nulla. No, cioè, sono molto libero su questo. E tra Mentana, in questa diatriba che c'è stata in questi giorni, tra Mentana e Santoro, da che parte sta? Allora, in un flash, perché abbiamo la pubblicità. Sì, Mentana naturalmente non è... diversamente libero, una brutta cosa quella che ha detto Santoro a Mentana. Sì, perché il problema è molto importante, perché è successo delle cose un po' antipatiche. Potrei secondo lei è vero che c'è stato questo blocco da parte del governo? Sì, ne sono convinto e potrei anche raccontare... Con Telecom? Esattamente, per raccontare anche la mia storia, che fui contattato un anno fa. Da chi? Da Stella. Sì. E all'ultimo momento tutto ciò svanì. Per colpa di chi? Non l'ho mai saputo. E dunque lei che sospetta? Sospetto che sia stato qualche volta a conflitto di interesse, perché poi Berlusconi... Cosa le aveva proposto Stella? Di entrare a far parte della 7, di occuparmi dei programmi sperimentali, che era un modo per entrare dentro la 7. Beh. Io posso dire una cosa? Sì. Io sono convinto di una cosa, che Berlusconi non ha mai pensato a me come un oppositore ideologico, eccetera, ma solo uno che fa audience. E di conseguenza sono sempre stato visto come qualcuno pericoloso. Non credo che lui pensi che io sia comunista. Su questo ne sono profondamente convinto. Cioè era timoroso che lei potesse andare alla 7, fare audience, dunque fare audience e fare ascolti. Quindi fa crescere la rete. Anche se io ho un altro sospetto, però siccome siamo alla radio occorre sempre essere molto dare notizie eccetera, io credo che ci sia stata anche un'opposizione in una zona grigia di questo modo del centro-sinistra, quella che io chiamo un po' perbenista, cioè quella insomma quella che praticamente Grillo direbbe è un PDL senza la L. E chi sarebbe stato il PD, vertici della notizia PD. Questa un anno fa sono stato contattato dal famoso Canaro, signor Stella, è un altro macaco era, e poi qualcuno ha impedito che io entrassi nel progetto della 7. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Bene, 19.35, questa è la zanzara insieme a David Parenzo con noi da Roma, 800 24 00 24. Carlo Freccero, uno dei guru della televisione italiana, ecco una brutta definizione ho dato, però c'è una persona che di televisione mastica tantissimi anni. Oggi si sente in questo ruolo, Freccero, direttore di Rai 4, un po' emarginato rispetto... Ma come? Anzi... Super emarginato. Dieci anni di emarginazione. Che vorrebbe fare lei? Mobbing aziendale gliel'ha fatto, professore. Col curriculum doveva fare Rai 1, doveva fare direttore di Rai 1. Beh, certo. Chiaro, naturalmente. Direttore generale lo potrebbe fare, visti i precedenti. Ma a me interessano più i programmi, essere sempre in prima linea, cioè quei sporcare. Però lei non è tanto da Rai 1. E vedi perché no? E bisogna rinnovare la fiction italiana, bisogna rinnovare tutto. Siamo ancora fermi. Tutto cambia. Sì, esattamente. Tutto siamo cambia. Ancora fermi alla fiction del grande, prestigioso uomo Bernabei. Ma non è mica possibile. Siamo se noi confrontiamo la fiction italiana con quella americana, non so, sembra di essere da parte appunto del 2011. L'altra forse anni 65, 70, 71, 75, ci sono sempre preti, biografie, eccetera. Il Vaticano ha ancora molta presa sulla Rai. E su Rai 1 per forza sono tantissima. La riprova è che il direttore generale, insomma, è stato in qualche modo imposto dal Vaticano al povero Berlusconi. La signora Lei? È il suo capo, la signora Lei, Si può dire che sia capo, tra virgolette. Allora, ecco, io dico, voi sapete una cosa, se c'è una cosa bellissima quando si invecchia, che si ritorna ad essere adolescenti, la libertà è totale. Si può dire tutto. Poi, anche del proprio direttore generale. Io poi oltretutto... Che giudizio le dà? Dia un giudizio sulla signora Lei. Non la conosco. Come non la conosco? Il direttore di Rai 4 non l'ha mai incontrata. Non l'ha mai incontrata. Lei non ha mai voluto... No. La signora Lei, perché fu questo bestice... Allora vi racconto che in 10 anni non l'ha incontrato mai alcun direttore generale. Mai. Allora non ho incontrato mai Cassacca, non ne ha mai incontrato... Ecco, l'unica volta che... Ma perché non vuole lei o perché la snobba? No, perché non mai... Hanno paura. No, l'unica volta che ho incontrato fu Cattaneo, il quale mi propose di andare in Sud America e cercare i format argentini. Ho detto, veramente Sud America, ma cioè, veramente non mi interessa. Cioè, io aspetto che tutto cambia, cioè, ma con molta sincerità. Scusi, le posso chiedere quanto guadagna lei, signor Freccero? Sì, è come lordo 265.000 euro. E lavora tanto o poco? Beh, faccio Rai 4 come Rai 1 della prima rete digitale. Sì, no, ma lavora tanto, cioè, nel senso, si sente sottoutilizzato, lavora poco per guadagnare. Pensa che questi soldi siano... No, io lavoro in modo scientifico perché sì. Non credo aver fatto anche un favore estremo a Berlusconi, perché naturalmente ho sviluppato Digitale Terrestre, che a lui conviene, contro Sky. Sì. E questa rete ha sottratto veramente ascolto, e come sai benissimo siamo... Ho fatto un favore a Berlusconi. Ho lavorato per Berlusconi dalla Rai, è bellissimo. Ho fatto involontariamente un favore a Berlusconi. Sviluppando il Digitale Terrestre. Guardate, cosa su cui punta molto Mediaset. Esattamente, su questo sono completamente... sono lucidissimo. D'altra parte credo che la valutazione che Sky, vedi come sono, do ragione a Masi, che la valutazione che Sky ha fatto della Rai sulla piattaforma Rai era inferiore al suo valore, chiaramente, cioè, quindi era giusto andare a scendere da Sky, a meno che, attenzione, la raccolta pubblicitaria sulle reti digitali deve essere superiore ai 60 milioni, che era quello offerto da Sky. Io credo, non avendo dati, perché non mi danno mai dati ufficiali. No. Alt, credo che a Rai 4 vi dà altre notizie. Io ogni volta che parlo alla radio do notizie. Che notizia ci ha dato in questo caso? Io credo che supererà i 40 milioni di euro di raccolta pubblicitaria. Hai capito? Cosa dice? Rai 4. Scusate, ma allora, vediamo questa cosa qua. Lei, visto che todo cambia, lei sarebbe anche pronto ad andare, che so, a Mediaset se la chiamassero a fare il direttore di rete? Ovvio. Ma se non ci fosse il conflitto di interesse, assolutamente sì. Anzi, cioè, una volta fuori Berlusconi dalla politica, pronto a tornare a Mediaset. Assolutamente, credo che Mediaset abbia... cioè, si può sperimentare di più che alla Rai, questo dice. Assolutamente. Poi io amo la TV naturalmente contemporanea, eccetera. Cioè, io credo che comunque oggi bisogna essere molto ottimisti, perché oggi, oltretutto, lo dico anche ai ragazzi, si possono creare TV web, si può cambiare tutto, lo scenario è interessantissimo, eccetera. Io non ho capito ancora tra Mentana, in questa diatriba che c'è tra Mentana e Santoro. Ha vinto Santoro, perché purtroppo... Come ha vinto Santoro? Sì, perché Mentana non ha mai risposto a un problema. Cioè se c'è qualcosa che ha impedito a Santoro di firmare il contratto. E magari non lo sa. Non lo sa. Secondo c'è lei lo stato sa. Una piccola leggina, come è stato tutti quanti sanno. Che lei crede davvero che il governo abbia fatto... Allora, anche qui torno a ripetere. Un articolo che ho fatto lì sull'Unità esattamente lunedì scorso, eccetera. Eccolo qua, ce l'ho. Ecco, esattamente. Io credo questo fatto che... loro erano sicuri, cioè detto, eliminiamo Santoro dalla Rai e poi ci penserà naturalmente la P4, che dico in tono così gentile, comunque tutta la politica eccetera, a non far arrivare Santoro a... Il piano era questo? Il piano era quello. Cioè fuori dalla Rai, chiaro. E poi il governo ci pensa a fare pressioni su Telecom per non farlo andare alla Esattamente, io ne sono profondamente convinto, malgrado per Telecom, torno a ripetere, Telecom ha tutte le carte in regola per essere addirittura non la quarta, quinta televisione, ma per essere la terza televisione nazionale, perché avendo un telegiornale e un access prime time con la Gruber intorno già all'8-9%, 10%, bastava 4 serate indovinate e dire la terza rete nazionale. È stato quindi hanno sacrificato. Può farlo ancora? Ci hanno rinunciato. Non ci sarà mai qualcuno così di impatto come però Santoro, scusate, cioè, mi sembra una cosa che io aspettava sempre il dottor Stella che cadesse qualche macaco. Per ora non è uscito ancora nulla. Quindi... Ma questo pure è vero. Allora, Riccardo da Catania, le piacciono le telefonate della Zanzara? Sì, la battaglia della Zanzara. Chi è Riccardo? Riccardo, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, che piacere sentirvi finalmente. Oggi sei riuscito a farmi superare l'imbarazzo, la timidezza, a farmi chiamare. Sì, però qui non c'è imbarazzo, non c'è timidezza, qui si combatte, vabbè, si lotta, minimo, lei è abituato, ci si rotola nel fango, come dice Fracello, una definizione molto azzeccata della Zanzara. Bellissimo. Riccardo, esattamente. Sono rimasto un po' così basito per come ha liquidato in due parole l'ascoltatore di prima della pausa, che parlava un attimino di Beppe Grillo e di come sia stato travisato, perché questo è un argomento che lei non vuole neanche prendere in considerazione. Grillo non è stato travisato, ha incitato alla rivolta, alla rivoluzione. Di che stiamo parlando? Non è stato travisato. Lasciamo perdere le cose, i black bloc, cosa ha detto esattamente, cosa non ha detto. Ha incitato alla rivolta. Molto semplice. Cosa alla rivoluzione, i black bloc stanno in Parlamento, tutto è morto. I partiti sono morti, quell'altro è morto, la TAV è morta, uno può piacere o non piacere. Tutto legittimo, no? No, ma perché a me fa orrore, a Frecciaro probabilmente piace Grillo. Detto questo, cioè, però non si può dire il contrario, non si può dire che è andato lì e si è rivolto solamente a quelli pacifici, si è rivolto a tutti, e dall'altra parte c'erano i poliziotti, i proletari poliziotti, signor Riccardo. Pasolini addirittura citiamo. No, vabbè, Pasolini no, però ho detto i proletari poliziotti. Riccardo, non è stato travisato secondo me? No, sì, sono d'accordo con lei, non è stato travisato, è stato volontariamente montato in una certa maniera e presentato al pubblico in una certa maniera. Ma no, basta perché con questa cosa della manipolazione di Grillo. Grillo è molto chiaro se si presenta così com'è. Scusi un attimo, oggi l'amico Filippo Facci, che non è certamente uno che ha pregiudizi, è uno che ha le sue idee, no? È una persona intellettualmente onesta, ha scritto un bellissimo articolo sul Libero in cui inquadra perfettamente la questione di Grillo. Uno che dice è tutto morto, la politica è morta, la TAV è morta, il Parlamento è morto, è andato lì a fare una sorta di comizio contro tutto e tutti, e poi di che parliamo? Cioè, poi bisogna distinguere, no? Si rivolgeva a questo il Black Bloc, no? È così Grillo, allora, se cioè, lei mi dà la possibilità le dico di che parliamo, perché Grillo ha detto anche che i poliziotti poverini che erano lì sono dei ragazzi sottopagati che ma fanno che semplicemente quello che gli viene ordinato, ma è quindi normale, perché che devono fare? Lei ha mai visto un poliziotto che fa quello che vuole rispetto agli ordini che riceve? Abbia pazienza Riccardo, ma di stiamo parlando sul serio? Ma questo non vuol dire incitare contro la polizia, cosa che è stata detta, non mi pare. Ma c'è modo e modo di incitare contro la polizia. Certo, non è che ha detto andate a caricare i poliziotti, cioè, ma questo è normale, quando si eccitano allora, gli animi dicendo che... Cruciani, mi fa parlare oppure parla lei? Sì, ho capito, ma... lo spazio che vuole. No, scusi, no, dica. Io dico la TAV è morta, perché è un progetto morto che serve solo ad accaparrarsi 600 milioni di euro dalla UE. Qui si entra nel dettaglio della TAV o contro la TAV. Ci sono persone che sono contro la TAV, professori, che espongono la loro idea, non solo professori, eccetera, in maniera pacifica, normale. Sono contro la TAV, esprimono le proprie opinioni, alcune peraltro io le condivido anche. Io le condivido, dico anche un'altra cosa, siccome più parlamenti di più colori politici hanno deciso in un certo modo, adesso i signori notav devono fare una sola cosa, come ho detto ieri sera, alzare le mani e dire ci arrendiamo, la volete, il 90% della gente la vuole, basta, finito, chiuso, basta proteste, basta assediare i cantieri, punto e basta. A un certo punto deve finire tutto, non è possibile che tutto bloccato, sempre. O no, tutto dipende cosa. Mi scusi, mi dipende cosa. No, mi dispiace per lei, Cruciani, ma lei deve abituarsi che ci saranno sempre più rivolte. Sempre più rivolte, addirittura. Mi dispiace, ma come sempre così. Più rivolte. Cioè, che si lei adora la rivolta, Freccero, lei adora la rivolta. Non adora a lei piace la rivolta. A lei piace la rebellion, la rivoluzione. No, mi piace proprio per nulla, però purtroppo. Un po' piace, purtroppo. Il gusto della rivolta. Ma perché? Alt. Perché non si può veramente uno non rivoltare, cioè così. Le piace, a lei piace il senso della ribellione, della rivolta, della protesta perenne. Allora, ma perché voi non vi scandalizzate delle bagianate della Lega e vi scandalizzate per notare? Perché ci fate ridere, fate ridere. Beh, questa l'accetto, però è vero che io sulle bagianate della Lega rido. Ma rida, però rido, non so, e loro sono al potere. Ma pensate che vogliono mangiare la carne di orso? Vabbè, ma quello, ma perché quello, una risata li seppellirà? Ma pensa alle cavolate che dicono senza costrutto, senza nemmeno costruzione. Ma quelle sono da ridere, vabbè, lì vanno a saltare. Ma quello è il popolo, ma lì vanno a saltare. Ma c'era il popolo che ci piace tanto che vota Lega. Il popolo. Ma purtroppo dovete abituarvi che ormai anche la minoranza, che ha in qualche modo sopportato questo pensiero unico, oggi ha voglia di gridare e di opporsi. Dovete accettarlo. Ma noi dovete lo accettiamo. Allora, chiaramente, io non voglio entrare scusi, sulla notte. Scusi, ma lei quelli che no, certo, non ma andiamo nei dettagli. Quelli che tirano le pietre contro i poliziotti, le piacciono? A lei? No. Li metterebbe in galera? No, non sono delinquenti matricolati? No, assolutamente, dipende da momento a momento, attenzione. Come da momento? Da pietra. Ci sono pietre. Ma dipende, io so, se noi prendiamo ultimamente cosa ha combinato la polizia, dovremmo anche fare un po' il punto di un attimo d'esame. Quante persone sono morte ultimamente in modo... Capito, perché adesso stiamo parlando di una cosa. Quelli che assaltano i poliziotti al cantiere Notav... Benissimo, la polizia ha diritto a rispondere. Beh, certo. Ma non a sparare lacrimogene all'altezza d'uomo, come ha detto l'inviato di Al Jazeera durante le l'inviato di Al Jazeera a differenza dell'inviato del TG1 pazzesca. Forse è più interessante. Senta, ma com'è questo litigio? Adesso torniamo alle cose televisive, poi reclutiamo qualche altro ascoltatore. Questo litigio dell'annunziata col signor Ruffini, come lo vede lei? Innanzitutto, l'annunziata è brava a fare televisione o no? Sì, molto brava. Molto brava. Una volta lei ha detto che non era brava. No, a fare la sua mezz'ora, una mezz'ora. Il programma è ottimo. Cioè, naturalmente. Una volta va detto è più brava nella carta stampata che in TV. No, dipende. Cioè, ogni programma ha una sua storia. Non ci sono. Allora, in TV, lei mi dispiace, ma oltretutto lei. Non c'è. Non ci sono mai superlativi e saluti. Ci sono solamente comparativi. Ci sono al limite superlativi relativi. Come si può dire? Se non so, se Santoro facesse il comico. Non può essere mica bravo. Cioè, vabbè, lei dice in mezz'ora è un bel programma. In altri contesti, magari appunto, non le è piaciuta. Vabbè. Non credo che. Anche secondo me è un bel programma in mezz'ora. Mezz'ora, e poi oltretutto è un programma che fa opinione, che si che dà notizie ogni settimana. Non esattamente, c'è per cui ognuno ha un suo. Ma esistono queste piccole mafie di cui ha parlato lei a Rai 3? Io purtroppo a Rai 3 non ci sono. Vabbè, lei però a Rai 4 è vicino, Rai 3 e Rai 4. No, io sono esattamente. Io vivo in un appartamento come l'escort. Sono esattamente un appartamento. In via Boezio. Ecco, come si è fatto il giorno? Ci racconti un attimo. Sì, c'era la sede di 3-4, un appartamento in via Boezio, come l'esco. Siamo in quattro persone che lavoriamo e facciamo ricerca su, e in qualche modo. Però 265.000 euro è tutto questo. Io penso a quello che prende altri dirigenti che appartengono in qualche modo alla struttura Delta, il mio è uno stipendio da operaio specializzato. Cioè, per esempio, chi prende un sacco di soldi? Chi prende un sacco di soldi? Operaio specializzato. Chi prende un sacco di operaio specializzato, facendo il paragone, con la mia carriera, cioè io sono quello che in TV con la mia, con quello che ho. Quanto dovrebbe guadagnare, sincero? Cioè, quanto dovrebbe guadagnare? Almeno 350.000 almeno. Ma come minimo mezzo milione. Beh, assolutamente, ma lei non sa gli stipendi del dirigente. Fate, non posso fare qui, io non come potrei. No, faccia, no, dica. Questa è l'unica cosa, perché mi sembra di fare l'agente delle tasse, ma io so che fate una bella indagine voi dei 24 ore, quanto prendono i dirigenti Rai, quelli che sono della struttura Delta, eccetera, che sono implicati. Ma lei crede che esista la struttura Delta? Esistita io, la struttura Delta? Credo profondamente che, come ho detto prima, è talmente forte la pigrizia ormai dei dirigenti media, che sono abituati ormai a avere in qualche modo, non come noi che abbiamo creato Canale 5, lavorando 15 ore al giorno, tutti i giorni, sabato e domenica, con Berlusconi che chiamava al mattino. Questi quasi sono così addormentati, adagiati sui lavori. Era forte Berlusconi all'epoca? Straordinario. Straordinario. Una forza della natura, pazzesca. Assolutamente. Ci racconti qualcosa di quel periodo, di quelle telefonate che le arrivavano? Finisco un attimo. Sì. Ecco, questi qua sono talmente abituati, ormai impigriti, che poi delegano agli altri, alla struttura Delta, di fare il lavoro sporco. Lo capisce questo fatto? Ma anche il mercato, siccome siamo a 24 ore, se c'è una cosa che qui manca, c'è la censura di mercato. È la cosa peggiore di una radio, dove è il simbolo, il drapeau del mercato, e questa qua TV è la TV senza mercato. Un po' di mercato adesso comincia a esserci. Non però c'è, un assolutamente. Po' di mercato. La 7 già cresce, ad esempio, un po'. Cioè. Ma dovrebbe essere. Ma è possibile che un momento in cui tutto nel mondo c'è questa rivoluzione mediologica, in cui ci sono tutte queste forme di ibridazione, eccetera, TV ancora siamo al duopolio? È una vergogna! Che applausi. Io devo applaudi perché che lavori alla 7. Ma no, certo. Ma chi c'è? Lui mica lavora alla 7, è mica mio direttore, ma è una lezione magistrale di televisione. Oltretutto devo dire che io mi auguro che la 7, io sognavo che la 7 in qualche modo scomparisse. Ma perché ne ho fragato questa trattativa di un anno fa? Il vero modello ci ha detto. Non l'ho mai saputo, oltretutto. Signor Stella, ci chiami, ci dica il motivo per cui. E lo dico per correttezza. Alcuni particolari li tralascio perché io sono anche un professionista, come non ho mai raccontato nulla di certe cose della mia esperienza Mediaset, Fininvest, così mai. Un buon professionista solo quando è pronto per fare le memorie, cioè vuol dire che è trombato a vita, può scrivere. Io non ho mai scritto nulla, mi hanno offerto qualunque cosa, qualunque cifra. Quanto io lo offrivano alla 7? Abbiamo parlato di cifre anche, però su questa cosa è. Ma era quasi sicuro, eravate d'accordo. Però detto questo, lasciamo pure perdere. C'è stato contatto, lo sa il mondo che gira intorno alla TV, lo sanno, le professioniste lo sanno, ma questo per. E qualcuno l'ha bloccato? Ha bloccato, torna a ripetere. Berlusconi? Cioè. Io penso a Berlusconi, ma anche quella zona grigia. Ma chi? La zona grigia del centro-sinistra? Allora, chi per esempio? Mi faccia un nome. un nome, un personaggio che ha bloccato l'arrivo di Freccero alla 7. Guarda, se c'è, ho più nemici forse io personalmente, in una parte del centro-sinistra che in una parte della destra, su questo qua in dubbio. Torno ancora un episodio solamente. Quando fu eliminato da Rai 2 non si alzò una voce a difendermi, perché tutti quanti la sinistra diceva che demonizzare Berlusconi era in qualche modo sbagliato, ed era il mantra che poi è servito giustamente sia a destra che a sinistra a eliminare i programmi di informazione e la satira. Quindi capite come sono furbi questi qua. Sono, cioè, tra, adesso lo vuol capire, ecco, pensi un attimo, ma tra me e non so, e chi? Merlo della commissione di vigilanza. Pensa che ci può essere una corrispondenza d'amorosi sensi? No, signor Merlo, no. Un punto di domanda. Perché, no, questo no. Gli ascoltatori non conoscono. Merlo è un deputato del Partito Democratico, cattolico, torinese, se non sbaglio, piemontese, per essere più precisi, che anche un po' antisantoriano, diciamo. Esattamente, l'ho detto apposta, appunto. Non c'entra proprio lui con la non ne capisce nulla di televisione. Nulla, proprio, nulla. È proprio ogni volta che parla di televisione, cioè non è ignorante, poverino. Non sa la nulla conosce, di televisione, non la conosce. Lui ha la visione ancora, appunto, bernabeiesca, cioè bernabeiana, e di conseguenza è giusto che abbia questo atteggiamento. Però la TV oggi è ben diversa, cioè, poverino. Questo per indicare, cioè, il nostro lavoro. Chi fa informazione a Mediaset? Le piace uno che fa informazione a Mediaset? Nessuno. Mediaset, non c'è nessuno che fa informazione. No, io devo dire veramente che l'intervista che c'è, cioè devo dire che il telegiornale in questo momento è del telegiornale. Sì, ce n'è uno, guardi, lo dico a proposito. Telegiornale, lo dico qualcosa sul telegiornale, TG5. È proprio fatto male. Male. Ma una cosa tremenda. Cioè, terribile. Ma troppo asservito? Poi vede veramente. Cioè, meglio il TG4. Quando si parlava di soldi, lei lo sa che Mimmun chiedeva due cocuzze. Sì, vabbè, questo è quello che c'è nelle intercettazioni di HG. No, di chi fa bene, chi lavora io. Beh, ho visto, c'è un mio amico che è di Savona, Lombezzi, che ha fatto una Mimmo Lombezzi. È uno bravo. No, ma di trasmissione non le piace niente. Matrix lo vedo ogni volta. Sull'infotainment è molto brava, cioè molto bravo. Sull'infotainment ha fatto le bellissime cose. Chi vedo brava, c'è Terra, alcune puntate molto buone. Ma io Capuozzo. Improvvisato. Perché non puntano sull'informazione su un talk show? Dice Pier Silvio voleva prendere Floris. Ma questo è un lapsus che dimostra quanto sono in imbarazzo circa appunto l'informazione. Mediaset è la TV del vietato vietare, sta tradendo il suo DNA. È una cosa che impose. La TV commerciale deve essere libera, sfrontata, deve attaccare sempre, deve. Cioè, non è, come è possibile avere il preservativo della censura? Ma è possibile! Vedi quanto è berlusconiano, Freccero! Freccero è il vero autentico berlusconiano! Pubblicità! La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Eccoci qui, 800240024, in diretta da Roma con David Parenzo e con noi Carlo Freccero, direttore di Rai 4, che ha appena detto una cosa su Mediaset col preservativo. Non l'ho capita bene questa cosa sul preservativo. Nel senso che Mediaset. Me lo dica come l'ha detta prima, il preservativo, come l'ha detta? No, non si possono ripetere le cose, naturalmente. No, perché poi viene la radio. Viene così, deve venire spontaneo. Però, cioè, secondo me in Mediaset ha il preservativo dentro. Sì, cioè, come se il biscione avesse il. Esattamente, se c'era una cosa in cui veramente io ho iniziato proprio lì, cioè non esplode, e c'era una libertà totale, ma è una cosa che era incredibile. Pensate un attimo, è nato lì il programma, naturalmente, Drive-In contro Dallas. Si aveva questo coraggio di controprogrammare a Dallas, che era la pietra miliare, la colonna vertebrale del paese. Addirittura Drive-In, cioè rendete conto che lotta c'era, che entusiasmo e c'era. Oggi invece che vede lei? Oggi vedo una, come posso dire, una passività, non vedo assolutamente delle scommesse, riescono persino in qualche modo a oscurare le Iene e le Strisce alla Notizia. Beh, oscurare le Iene, Iene. Nel senso non, cioè, hanno perso, c'è il freno a mano, c'è un freno a mano, il freno a mano, ma chi è? Berlusconi, presidente del Consiglio? Ma questo è in dubbio, non so, no, ma Berlusconi è veramente analogico, cioè nel senso veramente che è rimasto a degli anni e ormai di fronte le famose cassette, quando dicevo, mi hanno mandato la cassetta. sì. No, è irriconoscibile. Berlusconi era uno. Ci dica una cosa di com'era prima Berlusconi. Berlusconi era uno che, ad esempio, le posso raccontare. Io da Arcore ricordo del 79-80, si lavorava sino alle 3 di notte, e alle 3 non c'era ancora tutto quanto. Parlo del 79-80, non c'era ancora tutto quanto la 24 su 24, e c'era il rullo dei programmi, cioè una specie di così di orario. E ti chiedeva alle 3:30 di notte: ma perché Carlo non è replicato Hazard alle 4 del pomeriggio, lo fai solamente e no, domande di questo tipo, cioè si preoccupava del dettaglio, rompeva al mattino alle 7 sapendo che aveva la pressione bassa, mi chiamava e mi in qualche modo diceva: il mio autista Dino ha detto che il film non era bello, e rispondevo: attendiamo i risultati, poi vediamo un attimo. Perché era si preoccupava di questa cosa? E molte volte devo dire che all'inizio come ancora lo fa sulla televisione ancora un no, po' no, fa, non credo proprio che non... Io ho imparato proprio facendo ogni giorno, immaginando le odyssey che arrivavano. Se io oggi in qualche modo ho il meter incorporato dentro di me, è perché ho imparato da piccolo a fare questa cosa. Dunque, lei cosa ha imparato da Berlusconi? Ha imparato qualcosa? Una cosa fondamentale, che la maggioranza è un valore. Una cosa che tutta la mia generazione, pensi un attimo, 68-77, io ero ancora con Facchinelli nel 77 a Bologna, la minoranza era un valore, tutta la cultura era minoranza, praticare era elite. Oggi invece con lui ho scoperto che, facendo ogni mezz'ora 100 telefonate su un campione italiano, che l'ascolto maggioritario era il più importante. È una rivoluzione totale. Se poi lo capisci in qualche modo, veramente lo sa concettualizzare, sommatizzare, far entrare dentro, è una rivoluzione che per voi che siete bambini, per voi è tutto normale, ma per cioè, me in televisione non esiste. Ma per me, cioè, è impossibile. Lei può andare al cinema ed essere solo, e il film è bello lo stesso. In televisione non può esserci zero ascolto. È una rivoluzione, è una cosa. Cioè, la televisione non deve fare etica, non c'è etica, c'è solo funzionano. C'è solo, questa è una rivoluzione totale. Io ero abituato anche al cinefilm, quando andava al cinema alle 3, voleva che la sala fosse vuota, ci fosse in qualche modo la sala solo per lui, lo schermo fosse davanti a lui. La televisione è l'opposto. Cioè, questo è il grande insegnamento di Berlusconi. Ma no, l'ho capito. Con Berlusconi, l'ho capito, ma giorno dopo giorno, sugli ascolti. Ma è una cosa che voi potete immaginare. È lì che ho capito cosa succedeva, naturalmente. Che non c'era più elite, non c'era più niente. Era il pubblico che decideva i programmi. Lo capite che rivoluzione è stata? Oggi, naturalmente, c'è un'altra rivoluzione, che oggi anche le minoranze possono dettare le regole, perché col digitale qualunque tipo di minoranza può oggi avere la sua TV, e naturalmente ritorna a avere valore. Vede come tutto il mondo. E la cosa è bellissima, perché la TV è, se fatta bene, è meglio che la sociologia, è in diretta, se uno lo sa leggere bene, è sempre aggiornato, è sempre in qualche modo è attento. Senta, a tutto. Ma Emilio Fede oggi in televisione cosa rappresenta? Ad esempio, questo è una cosa che è insopportabile. Non può una televisione avere, con tutto l'affetto che ho avuto con Fede, che ho fatto con cui ho Fede, ho fatto il primo telegiornale nel 91, quindi sono... Allora, però, dica qualcosa a Fede, il nome, cioè, del... Ma non può più, basta. Dopo quello che è basta, successo. Emilio! No, me lo dico con lei, lo dice in tono ironico. No, che però, tono ironico? Però, parte di autorevolezza, cioè... Ci vuole un po' più, come posso dire? Il senso della... No, ci vuole un po' più di aggressività, cioè non è possibile, cioè... L'aggressività non ce l'ha mai. Io, guarda, se c'è una cosa, che io faccio sempre differenza, quanto io combatto il conflitto di interesse, Berlusconi, eccetera, cioè io, ma quanto invece io difendo chi lavora a Mediaset, difendo Mediaset, perché è un valore, cioè è stato... Però Fede no. Non è Fede, è indifendibile da questo punto di vista. Ma sì, poverino, si ritiri e basta. Allora, sentiamo Giuseppe da Napoli. Buonasera, Giuseppe. Buonasera, dottor Cruciani. Buonasera a lei e ai suoi ospiti. Vabbè, devo fare i complimenti per la trasmissione. Vabbè, Giuseppe, andiamo avanti lo stesso, senza complimenti, su. No, intervenivo perché l'ho sentita fare esprimere la sua solidarietà nei confronti dell'onorevole Papa. No, io aspetta, lei non ha capito bene. No, io non ho espresso solidarietà nei confronti di Papa. No, ho detto una cosa molto semplice. una cosa molto semplice, siccome adesso c'è Freccero che si incazza come una bestia, io non ho espresso solidarietà a Papa, anzi sì, ho espresso solidarietà a Papa, ma per un principio molto semplice, anche ironico se vogliamo, cioè siccome finora il PDL ha sempre votato contro l'autorizzazione agli arresti sia di deputati o senatori del PDL sia di deputati e senatori del Partito Democratico, non si capisce perché sto povero Papa alla fine è l'unico che ci rimette le penne, perché è un indagato di troppo. Ma sì, ho capito, in questo senso è l'ultimo solidarietà. Di una pentola già, cioè, dovrebbero essere in realtà coerenti. L'hanno indagato nel momento sbagliato, sì, ma non è che per uno gli altri di troppo. No, ma non è che per gli altri, ma c'è un momento e tutto cambia, tutto cambia, Cruciani, la goccia, ma no, la goccia. Uno dovrebbe essere coerente, lo dico ai deputati del PDL che finora hanno votato si sempre. Sono stufati anche loro. Ma basta. Non è vero, non è tutto così. Cambia, è che siccome cambia. Papa probabilmente non è appoggiato da nessuno, non ha gli agganci giusti rispetto agli altri, no, è uno e Freccello dovrebbe sapere bene, allora lo abbandonano a se stesso. Allora, vedi, Cruciani, lei è molto bravo, ma a volte fa questo qua, è un difetto alla Sgarbi, è un paradosso, c'è una difesa proprio. Ma io non lo sto difendendo, a me non me ne frega niente, non lo conosco. È una sgarbinata, è una sciocchezza. No, ma siccome con tono affettuoso. No, perché so, lei ma... ha una carriera lunga, bella davanti, non sia così stupido e superficiale. No, ma non è la superficialità, è una considerazione, se vogliamo, è un no, piccolo paradosso. C'è sempre un battito d'ali che fa scatenare il terremoto, per favore. Ma il terremoto che cos'è? L'arresto di Papa. Ma... lei si augura la galera a Papa, ma chi se ne frega di mandarlo no, in galera? No, quello lo digitale i magistrati. No, la galera poi tutto bene, a me fa veramente, se c'è una cosa, cioè mi fa schifo veramente, punto e basta, però almeno quello che conta è, come nel Grande Fratello, se fuori gioco. L'unica come cosa. Il Grande Fratello. No, no, ma fuori gioco lo sarebbe comunque. Cioè, non mi interessa, guardi, la galera. Anzi, la galera non l'auguro nemmeno il mio peggiore nemico. Però, naturalmente, è fuori gioco. Stop. No, ma che sia fuori gioco è a prescindere dal fatto che la Camera conceda gli arresti. Papa, io è indifendibile, Papa, è indifendibile. Lei sbaglia. No, lei ma è indifendibile innanzitutto. Lei fa... guardi, no, posso dire... rovina tutto il suo programma, dice il dottore. No, addirittura no. No, ma io sto dicendo semplicemente che... do la solidarietà a Papa, è una, se vogliamo, un piccolo paradosso. Io gli esprimo solidarietà perché finora gli altri, con accuse anche gravi, mettiamo anche Cosentino, sono stati più gravi le accuse a Cosentino rispetto a quelle a Papa, no, non c'è dubbio. Sono stati salvati, ma bravo, dalla Camera. Ma allora cerchi di capire perché questo e punto allora è indifendibile. Viva Papa, l'abbraccio, allora, caro Papa. Ma è come nella Prima Guerra Mondiale, c'è sempre un caso che fa esplodere, no? Nella Prima Guerra Mondiale, cosa è successo a un certo punto? C'è stato un caso. Ma andiamo ai titoli di mentale. È il momento in cui veramente è il momento dell'aziale. Lo dica lei, Todo. È il momento dell'aziale. Ma lo dica lei, Todo. Todo cambia. I titoli della 7, Mentana. Dopo i dubbi del Quirinale, l'irritazione della Lega, la protesta delle opposizioni, Berlusconi annuncia il ritiro dalla finanziaria del cosiddetto codice lo salva Fininvest della vicenda del lodo Mondadori, ma il premier ribadisce, è una norma giusta, doverosa, esulta l'opposizione, la governo un sussulto di dignità battuta all'arroganza del Presidente del Consiglio. Servono altre risposte dal governo, dopo aver ritirato la norma il Quirinale attende nuove risposte, secondo alcune indiscrezioni i dubbi del Colle potrebbero essere soprattutto attorno alle questioni che riguardano l'Istituto per il Commercio con l'Estero e quote latte. Abrogazione delle province, la Camera dice no alla proposta dell'Italia dei Valori. Con il voto decisivo di PDL e Lega, ma grazie anche all'astensione altrettanto decisiva del Partito Democratico. Polemico Di Pietro che parla di tradimento degli impegni elettorali tanto a sinistra quanto a destra. E nuove polemiche anche sugli scontri di domenica in Val di Susa tra forze dell'ordine e manifestanti anti-TAV. In un video su internet le immagini di un lacrimogeno sparato altezza Duomo, ma sentiremo anche il racconto del capo della mobile di Torino ferito da una sassaiola. Nessuna reazione dalle borse, dove il titolo non c'è più, ma il giorno dopo le sentenze di ieri sera del processo Cirio, conclusi con 9 anni per Cragnotti, 4 per Geronzi, a reagire sono i condannati che pensano alla pelle, i consumatori invece chiedono che gli venga riconosciuto adesso il diritto a essere risarciti. Ma chi andrà poi lo scudetto della discordia? Continuano a far discutere motivazione la sentenza di assoluzione per prescrizione dell'Inter in attesa della decisione finale del Consiglio federale del 18 luglio. Il vicepresidente della Federcalcio dice: noi non assegniamo o revochiamo gli scudetti. Ma secondo un esperto di diritto sportivo il reato potrebbe addirittura non essere prescritto. Eccoci qui di nuovo in diretta con la Zanzara da Roma, 800 24 00 24. Un ascoltatore mi scrive: dopo aver sentito la sua posizione su Papa, mi vergogno per lei, da stasera spegnerò la sua trasmissione. Un tale Silvio, naturalmente non è vero, non spegnerà, ma il punto è un altro. Io non ho dato solidarietà a Papa perché è amico mio o perché voglio che non sia processato o non voglio che sia arrestato. Ho detto semplicemente che non capisco perché altre volte, sulla base probabilmente delle stesse accuse eccetera, altri i deputati del PDL o i senatori del PDL hanno salvato, tra virgolette, i loro senatori e i loro deputati, e stavolta invece ci deve rimettere uno Papa. Di troppo. E c'è sempre il punto di rottura. La misura è colma, caro Papa. La misura è colma. Poi c'è il processo. Non è che lo stiamo arrestando. Perché adesso chiariamo per chi ci ascolta. Appunto. Non è che stiamo incitando alla galera. Non è che vengono, lo prendono, lo portano con gli schiavetti. Vabbè, cioè, abbiamo già dato su Papa. Oggi il Sole 24 Ore scrive: la notizia era un po', non dico nascosta, però non ha avuto troppo rilievo, che la famiglia Murdoch starebbe facendo qualche pensiero sull'acquisto della 7. È possibile secondo lei? Beh, Murdoch per il momento devo dire che non ha ancora dato il meglio di se stesso. Devo dire che Murdoch è molto interessato a Digitale Terrestre Free, sì. Su questo in dubbio, e credo quindi di conseguenza che possa scendere in campo. Per il momento devo dire che le cose che ha fatto, a parte il calcio, lo sport, il calcio soprattutto, non sono all'altezza di quello che mi aspettavo. Anche Sky 1? Sì, lo dico con molta... Però c'è stato anche Guzzanti, lì, ad esempio, Guzzanti è stato anche lì, io sognavo di andare lì, capisce? Lei non se la prende nessuno, com'è possibile? Perché è troppo scomodo, lei è troppo scomodo. Anche lì, posso raccontare, due cacciatori... L'hanno chiamato pure Sky? No, due cacciatori di testa... Ha contattato, avevo capito benissimo che era Sky, e ha fatto tutto quanto il bravo ragazzo, ma non è bastato. Non è bastato. Va bene, 800 24 00 24. Roberto dalla provincia di Arezzo, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. E Simona Ventura che va a fare Sky? Vorrei parlare sui talk show, se ne va bene. Sì, dica. Di Santoro, Floris e così via. Che c'è da dire ancora su Santoro, Floris? Pronto? Sì. Sì, io credo che, dato che i telespettatori, il numero... più o meno è sempre quella, no? Si rivolgono a una platea che saranno quei 15, 18, 20 milioni che si rispecchiano in quello che dicono questi conduttori. Beh, 15-20 milioni mi sembra un po' troppo. Comunque, l'audience è notevolmente cresciuta in questa stagione. Sì, anche però normalmente secondo me sono questi. Dunque, dato che ce n'è abbastanza, diciamo molti, che sono questi che fanno i conduttori per una certa parte politica, va a finire che il pubblico loro gioca rimane sempre meno. Ecco, forse perché, non lo so, la 7 può aver mandato a monte il contratto con Santoro. Ecco, era questa considerazione. Non l'ho capita, comunque andiamo. Allora, io ritengo questo, che il pubblico di questi talk show è di una parte politica e sono sempre questi che li guardano. Ma lei non ha mai guardato Santoro? Dica no, la verità. Guardi, non è così, lo sa perché non è così. Qualche anno fa non mi interessa, non, ma con questo non ritengo che non sia un ottimo professionista. Sì, no, ho capito, però guardi che c'è un sacco di gente che non ama Santoro o comunque magari politicamente vota per il centrodestra, che in realtà guarda Santoro anche per un pizzico di masochismo. Beh, già, questa è una vittoria però. Cioè, per esempio, io sono convinto che il telespettatore che vota centrodestra non ama conduttori che sono dalla... insipidi. Dalla sua parte, perché in realtà... No, chi lo guarda moltissimo, senz'altro il pubblico della Lega, su questo in dubbio. Santoro è visto molto dal pubblico della Lega. Anche perché è bravo a scegliere sempre ospiti della Lega. Ottimo, cioè... Ma che fine farà Santoro? Allora, io mi auguro naturalmente che possa ritornare in Rai, se no siamo pronti. Mi sembra molto difficile. Se allora siamo pronti a fare per la prima volta come artisti associati una prima TV. Siamo, c'è anche lei nel progetto. Sì, sì. Ah, che cosa? Lascerebbe la Rai quindi? Sì, assolutamente. Seconda notizia del giorno. Per fare una TV in proprio, sperando, cioè io ci sto lavorando un po' per vedere se è possibile costruire questa convergenza tra televisioni locali. Esattamente, mi interesserebbe molto. Credo che sia matura. D'altra parte, oggi l'unica cosa per risolvere il problema del lavoro è di essere imprenditori di noi stessi. Quindi comunque c'è la possibilità che lei si rimetta dalla Rai? per questo? Sì, esattamente. Per fare questo nuovo progetto, sì, con Santoro? Sì, sì. Anche a breve? Sì, anche a breve. Sì. Quando si saprà se questo progetto può decollare? Non so, prima bisogna lavorarci. Prima sempre 275 all'anno. Anche tranquillo. Come lotta il professore. Ah, guardi, posso... un po' di soldi da parte ce l'avrà anche per no? No, ma non si preoccupi per me, scusa. No, io mi preoccupo perché lei guadagna 265. No, perché oltretutto non ho meno la certezza, perché so che forse sono 250. Adesso mi è venuto in mente, perché non volevo in qualche modo aggiungere qualcosa. Comunque, insomma, qualcosa ci darà. Siamo qui, ma c'è questo collegamento con la signora Zanicchi a Strasburgo? No, niente? Non risponde, è a cena con parlamentari del PDL. No, sentiamo su il telefonino che squilla della signora Zanicchi, dell'onorevole Zanicchi. Telefonino? Pronto? Sì? Pronto? Sì? Iva? Sì. Ah, sei in linea? Ciao! Ciao, vi sento lontano, oltretomba, siete morti? Ci tocchiamo a carne, onorevole. Scusa, ci tocchiamo a carne, cara. Cara onorevole Zanicchi, no. È la mia amica su Facebook. Conosce il signor Freccero? Siamo amici. Freccero? Sì. Carlo Freccero. Il famosissimo direttore? Ciao, sì. Iva. Il più bravo di tutti, sì, lo conosco, Iva. L'ho incontrato un paio di volte. Ma come il più bravo di tutti? Lo dica Berlusconi pure che è il più bravo di tutti. Ma credo che lo sappia. Ah, Berlusconi lo sa? E allora perché l'hanno messo dello sgabuzzino a fare Rai 4 in una stanza con quattro... La escort della TV fa, l'hanno messo in uno sgabuzzino, professore. Della vita. Lui è forte, bravo, vedrai. Ma Iva, siamo amici, lo sai. Cioè, scusi un attimo, signora Zanicchi, onorevole Zanicchi, cioè Berlusconi sa che è il più bravo ed è proprio per questo che non lo vuole, per esempio... No, non lo vuole mettere in posizioni apicali, come si potrebbe dire, no? In posizioni di vertice, o sbaglio? A voi pensate che Berlusconi che sia Dio, che possa tutto? No, è solo Presidente del Consiglio e nomina solo una parte dei poteri. Io non so la situazione, guardi, io non seguo molto, perché sapete che sono una vecchia signora un po' distratta. Non conosco bene la posizione e la situazione di Freccero. So che lui è un uomo di grande valore, davvero, a parte gli scherzi, che ha fatto cose in televisione egregie. Grazie. Non so adesso se davvero, come dite voi, o se è una decisione sua, quello di star lontano, non lo so. No. Difficile che sia una decisione. No, Iva, posso fare la domanda? Do del tuo, scusa, siamo sì, amici. No. Su... Scusa, come ti è sembrato il programma La Notte degli Chef di Signorini? Io dico che Signorini è, insomma, bisogna dire... È un uomo molto davvero, passaggio. È anche stato professore a università famosissime. È un uomo coltissimo, un uomo che ha una professore, di è stato professore di filosofia al liceo, credo. Magari lo vedo meglio in un talk show, lo vedo meglio. Bravo. Magari dietro i fornelli ci sto meglio io, hai capito? Qui volevamo arrivare. Allora, diamo una notizia. Che Iva Zanicchi, siccome è una persona che ci conosce, corretta, è amica, eccetera, della Zanzara, amica, ci confermerà. Allora, noi abbiamo, come dire, indiscrezioni, notizie, che Iva Zanicchi sostituirà è brutto. No, condurrà? Condurrà una trasmissione sulle reti media. Sulla falsa riga, insomma, Cotto e Mangiato, trasmissione di successo condotta fino alla fine di questa stagione dalla signora Parodi, che si è trasferita alla 7, sarà condotta da Iva Zanicchi. Ci può confermare questa cosa? Guarda, giuro su quello che ho di più caro che non ne so nulla. Ma che mi importa? Io vorrei rientrare a Mediaset con Freccero. Allora è impossibile. Oppure fare un bel programma in Rai. Non mi vogliono. Tutti dicono che quando vado alle trasmissioni, lo dicono poi tutti, l'odio si impenna, e invece poi alla fin fine, insomma, niente da fare. Se mi volete togliere dalla politica, datemi un bellissimo programma e io me ne vengo a casa. No, però mi scusi, Zanicchi, qualcuno l'ha contattata per fare questo programma di cucina o no? No, per ora no. Giuro, se li contattano io premesse... ci penso molto seriamente, perché se riuscissi a vendere 2 milioni di libri come ha fatto la Parodi, io ci vado, Ma sa cucinare lei almeno? No, ottimo. Io so, ma anche la signora Parodi sa cucinare. No, ma lei, questo d'accordo, ma lei sa cucinare? Io sì. Il suo piatto forte qual è? Ma proprio ce l'ho nel DNA. Sai che dunque un programma di cucina lo farebbe? Puoi andare a scuola dai migliori chef, ma se non hai quel quid, se non ce l'hai dentro, nel DNA non sarei mai un grande cuoco. Scusate la presunzione, ma io credo di saper fare due cose: giocare a scopone come pochi e far da mangiare. Iva, e posso dire, nella notte di chef tu eri la migliore. Ma se non quando ho fatto niente. Sì, fatto quello, ma quando apparivi era già qualcosa, cioè veramente era già mangiato. Però eri già qualcosa rispetto ad altri che erano lì che non facevano, non sapevano cosa fare. Quindi, no, capisci? Però non toccarmi i signorini, Lo ma so, non però i signorini. In quella, no, in quel programma lì non c'entrava nulla, e per di più era anche con quella cosa in mano, quel mestolo in tutto, mano. Con quel mestolo in mano, guarda tutto, una cosa con pazzesca. Quel mestolo in mano è lavoro, è lavoro per io continuo a lavorare, sono ancora in prima linea. Ma quante ragazzi ore passa davanti alla televisione? Cioè, allora è molto semplice, devo vedere sempre le novità, le guardo sempre tutte. Ma ore, in termini di ore, cioè, no, 8 ore, 9 ore? Non sono ore, cioè è un lavoro, cioè, io lavoro in televisione, io sono un professionista, scusa, cioè, per cui come i giornalisti leggono i giornali, per forza. E allora loro in televisione guardano la televisione, cioè solamente i Rai, i direttori non guardano mai la televisione, ah, tre. La Lei, ecco, la guarda, perché cannano tutti i programmi, esattamente, la Lei ci capisce di televisione, il direttore generale Rai? Non so cosa abbia fatto. Lui direttore, perché il vero direttore è lui, ne capisce tanto. Ma davvero? Ma chi? Io non è perché di chi sta parlando? Visto che di Freccero. Ah, di Freccero, ancora. Lei, scusi, direttore, in questo momento non è potente, no? No, io sono zero. Sono allora come... posso dire che lei è il più bravo di tutti. Grazie, amore. Vabbè, ma adesso troppe sviolinate. Grazie, amore. Troppe sviolinate. E com'è il clima? Noi siamo molto, abbiamo molta nostalgia, non siamo potuti venire. Ci vediamo a settembre. Aperte, vi aspettiamo. Oggi abbiamo ottenuto un fatto importante, abbiamo restituito all'Italia 500. Vabbè, non c'è no, non parli di politica, signora Zanini. L'ultima, no, una domanda. Troscana allora si presenta pure, no? Troscan, pare di no. Cosa ne sai tu? No, ho letto. No, io lo vedo molto provato, quell'uomo lì. Beh, provato. No, quell'uomo lì. Guarda che vuole dire su Troscan lei, signor Piacere? Farebbe bene a presentarsi, secondo lei? Secondo me non è ancora detto. Non è ancora lei detto. Fa il tifo per Troscan, Un po' fa il tifo. Lei conosce bene la Francia, sono direttore di France 2, no? Come? Ti ha lavorato 5 anni... con il servizio, no, 3 anni con Berlusconi, 5 anni, 3 anni con il servizio pubblico, 8 anni. Ecco, ma i francesi perdoneranno Stroscan per questo amore per le donne? Poi per chi ha in qualche modo avuto una sconfitta c'è sempre amore. La défaite, c'est amour. La disfatta è amore. Tu non sai il francese, io lo però so. Però l'ho intuito. Naturalmente ricordiamoci che poi c'è il Dumas, cioè la vendetta. E quindi potrebbe capitare quello di interessante. Signora Zanicchi, perché... lei lo parla il francese? Che lui covi la vendetta. Lei lo parla il francese? Lui cova la vendetta. Dica, signor Crociani, dica. Lei lo parla il francese? Oui, monsieur. Ah, sto studiando l'inglese. Un petit peu. Senta, quando è che diamo l'annuncio del suo... Quando è che diamo l'annuncio del suo abbandono al Parlamento europeo? Ma ogni volta che lei mi incontra mi fa sempre la stessa domanda. Ma no, domanda. Ma noi la vogliamo a Strasburgo, però... lei tutte le volte todo lo dice, cambia, todo cambia qui, come dice Freccero, todo cambia, ci si rinnova. Todo cambia, vero? È anche una canzone bellissima. Todo cambia, però cambia sai che io sono una donna molto attiva. Non mi mettere a fare l'uncinetto a casa con i miei nipoti, perché io mi ammazzo, io ho bisogno di andare, di fare, di lavorare. Ma allora, come l'ha trovato l'Elemore? L'Elemore no, in carcere, però guarda, come io sono coerente, la politica è una brutta bestia, starne lontani. L'Elemore in carcere, come l'ha trovato? Beh, adesso allora torniamo alle cose serie. Io proprio grazie nell'essere europarlamentare sono potuto andare in carcere, ho trovato dal direttore agli agenti, agli educatori, persone... no, ma davvero, veramente straordinarie. Questo umane. Lo capisco. Ma lui com'era? Come l'ha visto? È un uomo, credo, apparentemente debole, ma invece io so che lui è molto forte. L'ho trovato male, nel male senso come? Che era molto provato, era molto triste, aveva gli occhi rossi, forse aveva anche pianto, perché aveva visto, dopo 15 giorni, la prima visita, aveva visto la figlia. Io per caso sono andato lo stesso giorno che lui aveva ricevuto la figlia. E, insomma, una cella piccolissima, era un caldo soffocante. Certo, vabbè, in carcere. Male. Cosa fa tutto il giorno? Cosa ha detto che fa? Quando vai in carcere ne esci davvero, davvero... Io ero distrutta quando sono uscita, perché a parte il fatto che Lele lo conosco da 40 anni, io ho pensato che fosse stato un po' abbandonato, come sempre succede quando uno va in disgrazia, viene abbandonato da tutti. E allora io mi sono presa su e sono andata a trovarlo. E credo di aver fatto bene, perché insomma un attimo di così di solidarietà, di amicizia. Lei conosce il signor Mora, Freccero? Sì, anzi, devo dire che grazie a Mora ho avuto Simona Ventura a Rai 2. Quando ci fu l'abbandono di Fazio, che lasciò Rai 2 esattamente a giugno, fine giugno, l'anno dello scudetto del Roma, dovetti improvvisare, trovare un sostituto e naturalmente tutti mi dissero devi scegliere Chiambretti. No, dovevo scegliere l'opposto a Fazio e naturalmente scelsi Simona Ventura e la prima puntata di Simona Ventura a quelli che il calcio dell'agosto fece 54%, di cui sono orgoglioso. Pubblicità, qui stiamo, come dire, no? Alla... Che? il pugno di Freccero dell'orgoglio, all'autoesaltazione. È vero, giusto, ma ognuno ragazzi, beh, signor Zanicchi, va a cena? Come? Va a cena o è già a cena? No, ci devo andare. No, stavo dicendo che Lele comunque sì, no, un attimo là, solo perché ho la pubblicità. È un uomo, ho la pubblicità. Aspetti lì. Ho la pubblicità. Durante l'intervallo c'era la borsa, la pubblicità, e Freccero mi ha detto: ma come fai a non irritarti per il fatto che qualcuno ti dice non vi ascolto più? È una follia. No? Cioè, che reazione avresti tu? È disperazione, lo spettatore veramente è tutto. Cioè, veramente è una pazzia. Cioè, questo essere talmente narcisista da perdere lo spettatore. È una coglionata dal licenziamento in tronco. Il suo narcisismo supera ogni limite. È vergognoso. Capite? Dunque, ripetiamo la regola aurea. L'editore di Radio 24 mi dovrebbe licenziare, sì, per questa assolutamente, cosa. Assolutamente. Perché ho perso un ascoltatore. Ma esattamente. Io ne perdo perché, ogni giorno e ne riacquisto, ma perché, magari 10 di più. Ma perché il suo narcisismo è veramente antitetico all'audience? Lei deve essere più umile e dire: scusi, ha ragione, ma sa che a volte io eccedo. Era un paradosso, ma in fondo al cuore io schifo di Papa. Io non ho schifo di Papa, però. Non lo conosco. E allora è grave. Ma io non comunque ho schifo di Papa. Vabbè, d'accordo, vabbè, lasciamo. Sono metodi, quelli di Papa, cioè questo, come dire, che fanno parte del lobbismo italiano. Il lobbismo italiano è diverso dal lobbismo. Sì, la chiamano lobbismo, va bene, la chiamano, lasciamo perdere. Beh. Cerchiamo di essere, diciamo, leggeri. Ormai sono quasi le 9. 20 e 37. Giacomo dalla provincia di Macerata, 800-24-0024. Questa è la Zanzara, un po' speciale oggi, ma impreziosita. Beh, comunque. Questa lezione magistrale di Carlo Freccero. Giacomo dalla provincia di Macerata, buonasera. Buonasera, approfittando della presenza di Freccero, che è un genio della televisione, per chiedere: è possibile che l'irritazione, quasi il livore che si coglie quando si parla di Grillo da parte di molti giornalisti, può essere dovuto al fatto che Grillo dice cose che invece la stampa e i giornalisti italiani fanno molta fatica a dire? Guardi, Grillo è molto semplice, parla alla stampa come parla sul suo sito, sul suo blog. Non c'ha filtri, naturalmente, e invece lei sa benissimo che i giornalisti hanno dei filtri, sanno dove c'è. Cioè, è chiaro che se lei, cioè il signor qui Cruciani, lavora per una radio che è Radio 24, per cui deve sapere che è presente a alcuni è perimetrato in qualche modo il suo ruolo. Cioè, io sono meno libero di Grillo, secondo sì, lei. Assolutamente sì. Ma lei sta dicendo una cosa che non sta in cielo né in terra. Perciò... Allora, le posso garantire, cioè, Grillo io lo conosco, cioè, conosco. È... parla direttamente, proprio parla senza filtri, non si pone. Ma anch'io parlo senza filtri. Sì, con la differenza. Però con la differenza quale? Io conosco qual è il mio editore, è evidente, ecco, che conosco qual è il mio editore. Molto bene. Posso dire un'altra cosa? Che allora la storia culturale, la storia di Cruciani è fatta di certo di un percorso. Grillo in qualche modo è, come posso dire, è dalla voce al suo il suo pubblico, e molte volte è populista, oltretutto veramente in certe cose sono in disaccordo profondo, per esempio ma sì, sul fatto che è morto il Parlamento e sono morti i partiti, no, nel senso che semplifica sempre tutto quanto, mentre purtroppo la realtà, ecco, lui è un semplificatore, cioè fa presente sempre un punto del futuro e va, in qualche modo illumina tutto il presente e il passato. Non è così, purtroppo. Ormai viviamo in un'epoca in cui il futuro coesiste col presente e col passato, per cui la realtà sono più complesse. Lo sai che io non mi sento affatto, non mi sento affatto meno libero di Grillo? No, allora forse mi sono espresso male. Allora, dico questo: Grillo parla come parla il suo sito, non ha nessuna remora. Non anzi, ha... devo dire la verità, secondo me Grillo risponde sempre, deve sempre alzare l'asticella, è costretto a spararla sempre grossa. Invece no. il sottoscritto può dire tranquillamente che abbraccio l'onorevole Papa, lo abbraccio perché gli sono solidale, gli sono vicino. Ecco, lei capisce, no, ma gli sono allora, vicino. Allora lei capisce benissimo. Ha capito la libertà che ha questo Cruciani. Appunto, perché, la libertà cioè, è che io dico a Papa: sì, ti sono vicino perché altri sono stati salvati. E non capisco perché no, i parlamentari del PDL non si comportino in maniera coerente e salvano anche te. Allora, diciamo questo: che Grillo ha un sistema nervoso, in qualche modo mediatico, molto più attento a quello che succede che il signor Cruciani, che invece è legato a, in qualche modo, a degli snobismi particolari. È il cotè che io detesto di Cruciani, questo suo essere un po' sgarbiano, cioè coglione. E non solo, l'insuccesso di Sgarbi dovrebbe insegnarli a evitare questo errore. È talmente così invece abile, intelligente, brillante della conduzione, ma deve avere queste cadute che in qualche modo è un vezzo, e lo perdoniamo per questo. Giacomo dalla provincia di Macerata, grazie. Mauro da Milano, buonasera. Intanto c'è Amadeus con noi, ciao. Ciao, buonasera a tutti, buonasera direttore. Ciao Amadeus, come va? Tutto bene? Bene, tutto bene, solo io non voglio togliere spazio agli ascoltatori. No, dici. No, ero in macchina, stavo ascoltando la trasmissione che è bellissima e volevo fare i complimenti al direttore. Io sono un fan della televisione, cioè sono uno che la fa insomma, quando gliela fanno fare o tenta di farla, però sono un fan di chi la sa fare e di chi la conosce molto bene. Io, lo sa il direttore, insomma l'ho sempre detto anche nelle interviste, ritengo il direttore Freccero una persona che conosce molto bene la televisione, quindi io lo ammiro per questo, al di là poi di essere stato quello che mi ha portato in Rai, ecco, nel lontano 99. Compagni di scuola, 99, ti ricordi? Festa di classe, esattamente, di classe, poi è diventato compagno di scuola, festa di classe. E lui mi vide ospite a furore e mi chiamò dicendo: vuoi condurre 13 prime serate su Rai 2? All'epoca era già tanto, insomma, se facevo il Festival Bar, io pensavo uno scherzo. E dissi certo, assolutamente sì, e mi impressionò perché lui festeggiò, si alzò in piedi, chiamò le segretarie, brindammo, mi diede un'energia pazzesca e mi diede la responsabilità di una prima serata da solo su Rai 2, e poi da lì partì, insomma, un direttore di rete è come un allenatore di calcio, deve assolutamente motivare, emozionare, eccetera, coach, non dire questo nome. Perché in Rai coach vuol dire un'altra cosa, vuol dire Bisignani. È un'ossessione questa cosa. Lo sa Freccero che io, secondo me, non esiste la P4. Io sono convinto ti ricordi comunque che è successo, favoloso, madonna. Invece di arrabbiarsi con me, vuole fare Chip Chop con Amadeus. Caramba, che sorpresa! Com'era la musichetta della... Invece di prendersela con me, perché si rivolgerebbe in maniera violenta. Quando io dico che secondo me la P4 non esiste, non voglio dire che non esistono influenze, non esistono pressioni, voglio dire che non esiste questa organizzazione segreta, la P4. Lui mi vorrebbe mangiare su questa cosa qui. Beh, insomma, diciamo questo. Deve essere anche provata la cosa. Come esattamente? Guarda, siamo nel campo ancora delle indagini. Se io non sono più a Mediaset, la colpa è più di Berlusconi e di Letta. Perché io feci il programma Lezioni d'amore con Ferrara. E la moglie, Selma Dall'Olio. Selma, esattamente, una coppia eccezionale per parlare di sesso. Naturalmente Letta, colpa della Chiesa, disse a Berlusconi: quella che c'è un problema. Poi ci fu il problema col calcio di Galliani, perché fece l'appello del martedì con Mosca, anzi lo ricordiamo qui, il più grande uomo di spettacolo di calcio, Mosca. Maurizio Mosca. Ma è per cui è veramente un grande amico, una grande affetto, eccetera. E Galliani mise anche lui naturalmente l'asso. Poi alla fine quindi Berlusconi cedette, dopo l'arrivo anche di altre voci. Per cui prima fu Letta e poi Galliani. Quindi vedete un attimo come sono le cose. E per cui questa P4 è un'altra cosa, è questa lobby che deve scontentare tutti, questo grigio, questa cosa sempre informe, conformismo, pensiero unico, pensiero unico, DC. La DC si è morta, la DC è finita. E questa uniformità, tutto grigio l'Italia, tutto grigio, tutto quanto uguale, tutto quanto le cupole. Basta, invece la TV è colore, esplosione. È chiaro. Ho capito, ma se ascoltassero le telefonate di altri ambienti su "e io ti raccomando quello", adesso lasciamo perdere le indagini. No, ma è proprio il modo. Ma perché raccomandano sempre persone così senza meriti, così veramente, per esempio? Sì, così grigi, così non che non hanno mai un po' di sangue, che hanno solo quel sangue freddo da rettili, perché possono essere lucertole in questi letti del potere, in questo grigiore, in questo potere così insopportabile dove tutto quanto uguale. Che schifo. Traffico, Amadeus, resti con noi un secondo, che sì, voglio chiedere un paio di cose. Frecciero che canta addirittura "todo cambia". Vada avanti, professore, tutto vada avanti. Cambia, ma dopo Berlusconi che succede? Dopo che Berlusconi non sarà più presidente del Consiglio, la televisione, ci sarà una grande rivoluzione anche in televisione, Frecciero? È chiaro. È tutto chiaro, è tutto chiaro. No, è chiaro, sì, ci sarà una grande rivoluzione. Sì, assolutamente. Cioè, sì. Il blocco di adesso, a parte che questo blocco non è che lo vedo io tantissimo. No, non lo vede perché lei ci lavora dentro, per cui no, non come ci fa? Lavoro dentro, in parte. Cioè, invece il blocco io lo vedo, sono 10 anni veramente che tocca veramente soffrire terribilmente. Beh, non è che il blocco può riguardare solamente Amadeus. Sì, Amadeus. Amadeus lei invece non è bloccato, a settembre cosa fa? Non è lontano dalla realtà, è un lapsus. Ha ragione, fai solamente mi guardi ancora, è vero? Sì, esatto, guardi da settembre, devo dire che è l'unico che si è fatto vivo. Però anche la radio, però, adesso ricordiamo, sì, per carità. Sì, anche la radio, radio devo dire è un buon accordo. La radio è straordinaria, È un antidepressivo eccezionale la radio, poi ti permette di sperimentare appunto, di essere presente, di avere il famoso contatto con gli ascoltatori, anche quelli che ti abbandonano, però in qualche maniera secondo me poi tornano il giorno dopo perché sono curiosi. Quindi quell'ascoltatore non l'hai perso, vedrai che domani torna ancora. Ma sì, cosa ti piacerebbe fare invece? Ma io, a parte la radio, in televisione, no, cosa mi piace? Direttore, sa, io amo molto i quiz, sono andato anche in giro all'estero a guardare, sono andato a vedere a Francia, prima rete francese, 1 contro 100 che avevo portato a Mediaset. I quiz mi piacciono molto perché c'è una liturgia che è meravigliosa e quindi mi piacciono. Dopodiché io sono nato con la musica, con i festival bar, però insomma ritengo che nella televisione oggi devi avere quell'anima, come dice, quel sangue caldo per poter fare anche più cose, non solamente un'unica, insomma, almeno il conduttore di oggi è così. Che c'è? Cosa c'è, professore? Perché si sto vedendo come è vestito Telese. Come è vestito Telese? Perché? In radio non si può vedere, la descriviamo. C'è la seconda puntata, credo, no? Di in onda, certo, nuova stagione estiva. Nuova stagione, adesso ci lavora anche Parenzo. No, da un anno ormai. Vabbè, diciamo anche questo. Poco male questo. Si parla di Futura Libertà e c'era Telese vestito con, mi sembra, una giacca chiara, Havana. Rosa, no, che rosa? No, è bianca, è chiara, color crema nocciola. Ma guarda il Felt come è vestito elegantemente, porca miseria. Bisogna curare anche questi dettagli, Dio santo. Scusi, lo dica, lo dica al manager di Telese, chi è? Caschetto, mi sembra. No, lo dica. Sì, è Caschetto. Non sa niente, non sa. Molto Frecciero, forte Caschetto come manager, signor Frecciero? Sì, è molto forte, è veramente in gamba, ha lavorato... Alla 7 comanda lui, eh? No, non dico che comanda lui. Tra virgolette. Ha scelto un'ottima squadra per avere in qualche modo print time molto solidi. E quando lei sa benissimo, dei print time solidissimi. Lei non sono mai piaciuti, però, i manager degli artisti. Ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale. Dipende, cioè, è chiaro che bisogna discutere. Però, no, però devo dire che sì, con qualcuno no. Però, Caschetto, bisogna saperlo prendere. È molto abile. Bisogna in qualche modo. Cioè, io. Comunque con lui è il migliore, secondo lei? È molto bravo perché sceglie sempre dei numeri uno, poi si aggiorna continuamente. Mi dia un giudizio su Giuliano Ferrara in televisione. Allora, Giuliano Ferrara, come ho detto, come ho detto prima, il suo spettacolo, la sua ultima cosa che ha fatto a Rai 1 era purtroppo molto triste. Perché? Perché non funziona più, Giuliano? Giuliano, scusate, quando faceva la radio a Londra era sul canale 5 e non c'era l'informazione. Era veramente una novità assoluta, cioè in qualche modo era la voce che arrivava dalla tomba, eccetera. Invece adesso? Adesso è dopo Minzolini, è come fare cane cane, cioè aggiungere, fare quella conformista terrificante. Perché conformismo? In questo momento ma anticonformismo. Ma come? Ma con quel telegiornale nell'informazione cioè andrebbe messo su Rai 3 allora. Ecco, esattamente. Andrebbe si può fare, sì, ma lei proprio si vede che lei faccia la radio, stia zitto. No, cioè, ma che c'entra? Ma, si gioca sempre però posti cane gatto, non fare cane cane. Questo è un altro discorso. Beh, quindi, per favore, ma questo discutevo, è discutevo sul conformismo. Ma è dura banale. Oltretutto non ha fatto opinione, perché dopo quel tre giorni di Minzolini, arrivare che arriva lui a fare quel radio Londra lì, cos'è? È radio autoparlante, cos'è? È autoparlante, non radio Londra. Cioè veramente no, non sono d'accordo. E invece sì, è fatto una cosa, lo dico, dovrebbe perché andare su Rai 3, sono d'accordo. Ecco, posso Rai 3, ma no, Rai 3 perché non ma vogliono poi, voci dissonanti. Ma poi il problema è un'altra cosa, la storia, cioè lui è non può fare da quando ha scoperto Marx, il Craxi. PC e Craxi, Berlusconi. Vabbè. Ha scoperto Ratzinger, lo trovo così un po' più deludente, io voglio che ritorni più per essere più Marx e meno Ratzinger, no, più ecco, più mutande. Più mutande. Amadeo, sei in televisione che vede? Tutto. Io in televisione vedo sì. Qualsiasi cosa, a me piace vedere tutto, le prime puntate di tutto in genere, poi se mi annoio rimane la prima puntata. Nell'informazione a cos'è che resta attaccato? Lì che a me piace molto, no, a me piace molto Santoro, ho visto molto Santoro, mi piace molto Floris, in genere l'informazione mi piace tutta, cioè, ma mi piace anche vedere l'informazione è quella che dicono, come dire, faziosa o meno, vedo Paragone, mi piace vedere anche gli stessi ospiti quando vanno nelle varie trasmissioni se hanno lo stesso tipo di approccio o meno. L'informazione mi piace molto il TG di Mentana, io l'ho pure detto, è forse l'unico TG che in realtà vedo. Beh, però io continuo a ripetere, tra la libertà di Mentana e quello che ha detto Santoro, io sono dalla parte di Mentana al 100%. Al 100%, non capisco perché Freccero è una persona intelligente. No, ma io per capire, io se c'è qualcuno che ha parlato del TG bene, del TG di Mentana, mi rivolgo a Parenzo, perché sempre l'ha sempre fatto. L'ho sempre fatto in ogni programma, nei programmi anche Rai, l'ho sostenuto. Cioè, Santoro l'ha anche accusato di essere troppo vicino al potere, di non aver mai. Lui ha fatto. Allora, lui è successo una cosa un po'. Bisogna stare attenti quando si parla, purtroppo. Lui ha detto quando scoppiò il caso P4, che per lei non esiste naturalmente. No, il caso, ho detto la P4, è diverso. Per lei non esiste. No, la P4 allora, ho detto. E lui disse, si parlò anche di Letta, e naturalmente disse io su Letta, naturalmente non posso che parlarne bene. Anzi, non si può parlare bene di Letta. In questa crisi che ho avuto a livello lavorativo, è riuscito ad aiutarmi. Ha sbagliato a dirlo. Cioè, questo dimostra appunto che lui ha avuto qualche passaporto, ha avuto qualche. Io non sono mai andato da Letta a dirmi, io vorrei tanto fare Rai 1, fare Rai 2, fare non so. Ma non è detto che lui sia andato da Letta. Capisci? Ma insomma, questa cosa è. E poi troppo vuol dire vicino a Letta, troppo vicino al potere. E poi questo così, sì. Su questo è il dubbio. Bene, dobbiamo chiudere, grazie agli ascoltatori purtroppo, che ci possiamo stanno. Continuare ancora. No, non possiamo. Alle 21:30, non possiamo. Grazie a caro. Grazie a voi, grazie Amadeus. Grazie. Grazie a voi, arrivederci, direttore, grazie. Viva la radio, viva la radio. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.